crescerò dentro alla mia balena, e quando sarò triste mi girerò di schiena. Vincerò, tornerò, e come fa il torero, uccido una canzone che non somiglia al vero. Lascio qui questo mondo parlare parole, io corro dietro all'aria, mi tuffo in fondo al mare. Io vivrò, crescerò, dentro alla notte scura, mi metterò i colori per non aver paura. Io vivrò, parlerò a tutte le persone, e se mi cresce il naso parlerò d'amore. Piangerò, riderò, rimango quel che sono, non sarò mai cattivo, non sarò neanche buono. Lascio fuori le mie gambe di carne e di ossa, molto meglio. Io vivrò, crescerò, dentro alla notte scura, non ci sarà mai fine per ogni mia avventura. Pinocchio sarà il nome di tutte le persone, di tutti quelli che non hanno un nome. Quando mancherà poco ritornerò nel libro con la mia fata e con il mangiafuoco. Nascerò ancora mille volte, non sarò mai diverso, un burattino forte.